@Radio24. Buonasera da Marta Cagnola e da Giulia Crivelli. Questa sera andiamo a incontrare due bei ragazzoni che sono i protagonisti di una nuova serie televisiva che si chiama Strike Back. La vogliamo presentare perché in realtà ha già qualche tempo questa serie TV, ma è arrivata su Sky 1 proprio questa settimana. Una serie di grandissima azione sullo sfondo del terrorismo globale nell'era di Bin Laden, una sorta di incontro tra 24 e Arma Letale. Ci raccontano qualcosa di più i due protagonisti, che sono Damien Scott, cioè Sullivan Stapleton, e Michael, il sergente Michael Stonebridge, cioè Philip Winchester. Io partirei proprio da Sullivan Stapleton. Well, he's a good soldier, but he doesn't really follow the rules. He takes his job seriously, but he has a lot of fun doing it. I think he sort of lives on the edge compared to the Stonebridge character. Section 20 need his help to find this terrorist. And he and John Porter from the first series were the only two guys that really could ID this terrorist. So they invite him to join the ranks and get back out in the field. That relationship between Scott and Stonebridge I think is the core. I like the fact that really it is about how these two deal with that, with their job and with their personal life. We have a lot of fun, and a lot of that is just sort of that brotherly, like we support each other and help each other out. Ecco qua Sullivan Stapleton che ha raccontato alla Sky inglese in questi audio di presentazione di Strike Back il suo personaggio e anche un po' quello che succede in questa serie, Giulia. Sì, lui parla del suo character, appunto il personaggio, dice he's a good soldier, quindi un buon soldato, forse c'era anche un film The Good Soldier, and he doesn't follow the rules, e non segue le regole, quindi esattamente come in italiano, seguire le regole, anche qui verbo e accusativo, quindi questo è, non c'è pericolo di sbagliare, possiamo tradurlo letteralmente, to follow the rules. È un po' un personaggio tipico di questo genere di serie TV, ma anche di film, quello che sta sempre sul limite, in un certo senso, tra quello che si può fare e quello che non si potrebbe fare, ma si fa se serve alla giusta causa. Sì, in un certo senso he takes his job seriously, nel suo modo naturalmente, quindi prende il suo lavoro sul serio. Noi diciamo sul serio, invece gli inglesi usano l'avverbio che appunto è seriously, seriamente, e si diverte molto, he has a lot of fun doing it, però come diceva Marta he lives on the edge, cioè visto da fuori per lui si può fare solo così dal suo punto di vista, in realtà è uno che appunto vive sull'edge, proprio sullo spigolo, sulla cornice, al limite, insomma. Ma in una squadra ci vuole uno così, infatti lo invitano a far parte di questo team. Sì, perché poi vabbè, chi seguirà la serie lo scoprirà, insomma lui viene appunto chiamato come elemento in più, quindi they invite him to join the ranks. Ranks naturalmente sono i ranghi, quindi di far parte di questo piccolissimo esercito, perché poi in realtà sono due tostissimi, questi due appunto tra poco sentiremo l'altro, e quindi dopo che per un po' era stato fuori dalla battaglia, get back out in the field, come diceva Marta. Non è proprio una guerra vera e propria, la guerra al terrorismo che sappiamo è giocata in queste trincee, spesso appunto si va a prendere una persona, oppure sì, magari si gioca anche tramite internet o altri mezzi elettronici, non è un vero field, non è un vero campo di battaglia come Seconda Guerra Mondiale, ecco. I due attori si sono divertiti tantissimo. Sì, appunto, quindi lui dice a lot of fun doing it, come lui si diverte a fare il suo lavoro così, però anche we have a lot of fun. Quindi dopo le frizioni iniziali, perché appunto sono diverse, sort of, cerca di spiegarci che ha questo brotherly, questa relationship da fratelli, no? Beh, brotherly è fraterna, che vuol dire anche nella fraternità maschile, anche piena di conflitti, di non detti, però insomma alla fine è molto forte questo rapporto. Anche perché si aiutano, c'è una sorta di mutuo soccorso. We support each other, che appunto ci aiutiamo, in questo caso è la costruzione leggermente diversa, cioè ci diamo aiuto a vicenda, e poi we help each other out, questo l'abbiamo visto tante volte, si può anche dire we help each other e starebbe benissimo e si capirebbe, cioè ci aiutiamo, aggiungiamo quell'out e rafforziamo, non è un vero phrasal verb ma serve a rafforzare quest'idea di aiutarsi a vicenda. Allora passiamo al secondo personaggio e al secondo attore, questo sergente Michael Stonebridge, il personaggio interpretato da, insomma, si presenta da solo. My name is Philip Winchester and I play Sergeant Michael Stonebridge. He's dedicated. He's not as arrogant as Scott or as cocky as Scott. Michael wants to keep both these worlds completely separate, to be professional with Section 20, and then he has, you know, obviously he has his marriage, and he doesn't want these two worlds to intersect. He was an orphan kid, he was adopted, so he has these issues of, like, mother-father issues that he put into protecting other people who have the same issues. So I think he kind of directs his energy into protecting other people all the time, and if it means that he falls short, that's fine, that's fair enough. So Scott joins the picture and messes it all up. I'd never say it to his face, but Scott's a nice breath of fresh air the way the British system is run over here at Section 20. Scott comes in and he's ex-Delta, so he's got a whole different way of doing things. Nelle serie TV, in realtà soprattutto americane, anche se questa insomma è inglese, anche se poi rifatta dalla HBO, quindi qualcosa di americano, cioè, c'è sempre il concetto di good cop e bad cop, poliziotto buono e poliziotto cattivo, che si ritrova a volte anche come metafora. A volte i ragazzi dicono che papà e la mamma, uno fa good cop e l'altro fa bad cop, e in questo caso anche qui è stata creata una coppia un po' di questo genere. Sì, perché lui si define, descrivendo il suo character, questo Sergeant Stonebridge, si dice molto dedicated, cioè dà molto di sé. Non possiamo tradurre dedicato, perché in italiano si capirebbe il senso, ma noi non lo usiamo. Quindi è molto dedicato alla causa, o comunque insomma dà tutto se stesso al suo lavoro. Non è as arrogant as Scott. Poi usa anche un altro verbo che però è un po' volgaretto, quindi chi l'ha capito, io ve lo dico, e poi dopo magari qualcuno lo capisce, che è cocky, perché viene da cock, che insomma c'è chi sa cosa vuol dire, noi non lo diciamo, lasciamo il mistero. Però inizia con la stessa, inizia esatto. Anche in italiano. C'è anche una storia familiare sotto appunto il personaggio di questo sergeant. Anche questo, se vuoi, è abbastanza tipico, no? Di queste serie, che poi a un certo punto si scopre la parte familiare privata per dare più spessore a questi character, a questi personaggi. E lui è doesn't want this world, cioè quello personale, quello professional, to intercept, di intercettarsi, di mischiarsi, li vuole tenere completely separate. E poi, e qui c'è una parola molto interessante, perché scopriamo che Sergeant Stonebridge è un orphan kid, cioè un orfano, e he was adopted. He has these issues. Issue è una di quelle parole molto versatili, vuol dire persino numero di una rivista, però quando si usa così, I have a issue, vuol dire che ho un problema, noi diciamo così. Quindi he has these mother-father issues, ha questi problemi con la figura della mamma e del papà, e quindi probabilmente per questo suo passato da orphan kid. Che lo fa comportare anche in un certo modo, insomma anche nel positivo, che gli ha dato delle caratteristiche molto positive. Sì, non lo ha reso, diciamo, non lo ha incattivito o inacidito, ma gli fa in modo che he directs his energy, quindi dirige la sua, incanala la sua energia, diremmo in italiano, into protecting other people, nel proteggere altre persone, perché appunto si suppone che lui non si sia sentito protetto, anzi che si sia sentito rifiutato, perché appunto è un orphan kid. E come hanno fatto a incontrarsi, a incrociarsi? Perché insomma sembrano molto diversi. Sì, perché c'è stata questa immissione e lui dice I never said this to his face. Non gliel'ho mai detto in faccia, però probabilmente non l'ha detto né all'attore né nella sceneggiatura glielo dice. Però l'arrivo dell'altro, di quello arrogant and cocky, messes it up, cioè fa un po' di casino. To mess up vuol dire fare un po' di casino, però dà anche un breath of fresh air, dà letteralmente un respiro di aria fresca, quindi dà una ventata d'aria fresca, diciamo noi, non un respiro. Ecco, questo è un false friend, perché, o comunque è un modo diverso, molto simile, di dire due cose che capiamo, però appunto noi non diciamo un respiro ma una ventata. Anche perché appunto è un ex Delta, cioè un ex agente segreto della Delta Force, e quindi fa le cose diversamente. All different way of doing things. E qui sappiamo che all, ormai lo sappiamo, non è all scritto A-L-L, ma all nel senso di proprio completamente, che è scritto W-H-O-L-E. Abbiamo già sentito quanto si sono divertiti insieme Sullivan Stapleton e Philip Winchester. Tra l'altro sono due gran bei ragazzi, lo dobbiamo dire, insomma siamo in radio, dobbiamo descriverli, sono esatto, molto atletici ovviamente per il loro ruolo. Ed è molto fisico questo ruolo dei due personaggi, ci vuole una grande preparazione, un grande allenamento. Ecco com'è stato il loro training. We got off the plane from England here in South Africa in Cape Town, and we went straight into about a month of intensive military training with a group of guys, and it was great. So, you know, Sully and I'd meet every morning at 6 o'clock outside where we're living, and we'd run to this. They'd pick a location for us where we'd run to, and we'd do kind of recce on the way, so we had to learn streets and where people lived in different locations, and we'd have to, you know, we'd get there and they say, that car on the corner that you passed before you came up here, what was the license plate? And it was just like, we just got onto a strict regime of weights and protein and, you know, supplements, lots of running. Basically they just took us out into the country and dropped us in the middle of nowhere and said, get through this bush, which we couldn't get through. That was hell. And then woke us up at 5 in the morning after sleeping in full gear. Took us on a 4K run straight up a hill. It was good for the body. So we certainly got fit pretty quick. Eccoli qua, sempre i due attori nella presentazione che hanno fatto per lo Sky inglese, ma vi ricordo che va in onda da questa settimana su Sky 1, quindi possiamo vedere anche noi questo Strike Back. I due fisiconi effettivamente sono arrivati bel belli dall'Inghilterra e si sono trovati catapultati in Sudafrica, dove hanno girato questo Strike Back, ed è stata una bella sfida. Sì, perché, e qui questo è un vero phrasal verb, we got off the plane from England, to get off vuol dire scendere, quindi siamo scesi dall'aereo, e we went straight into intensive military training, e siamo andati direttamente, to go straight vuol dire andare proprio direttamente, più che un phrasal verb è la traduzione, anche in italiano diciamo così, abbiamo iniziato immediatamente a fare questo intensive military training, cioè proprio un allenamento militaresco, probabilmente erano anche degli ex militari che li hanno allenati, questo non lo dice, dice solo a couple of guys, ma questi guys non si sa bene chi fossero. In un posto a loro totalmente ignoto, quindi già dovevano orientarsi e capire dove fossero in Sudafrica e fare delle cose parecchio dure, tipo una dieta a base di proteine e bianchi d'uovo, così. Sì, proprio a strict regime. Regime è anche il regime militare, ma è anche il regime dietetico, quindi come in italiano. Perciò gli davano questo, i supplement e poi lots of running. Gli hanno fatto correre tantissimo, ma insomma sappiamo che ai ragazzi viene più facile forse che a noi ragazze. Through the bush, attraverso il bush sudafricano, insomma, hanno dovuto fare delle belle corsette, e non finiva mai questa corsa e questo bush sudafricano. E ammette che, insomma, per quanto sicuramente fosse in forma anche prima, perché se hanno fatto un mese di military training e sono diventati così, non ci crede, insomma, dovevano essere belli fit già prima. Comunque dice, ammette lui stesso che queste cose di essere buttati in the middle of nowhere, nel mezzo di niente, was hell, era abbastanza un inferno. Addirittura forse nel cuore della notte, perché c'erano che come dormivano? Sì, perché poi dopo appunto dei sleeping in full gear vuol dire anche marcia, ma in questo caso vuol dire dormire completamente vestiti, cioè probabilmente li svegliavano al mattino, facevano questi allenamenti, poi magari andavano a dormire un pochino e dormivano vestiti perché erano stravolti. Beh, un bel esercizio, good for the body, dicono. Good for the body, and we got fit, quindi siamo diventati in forma, fit, pretty quick. E qui vediamo che questo signore, insomma, con la grammatica ha qualche piccolissimo problema, perché teoricamente avrebbe dovuto dire got fit pretty quickly, cioè usare un avverbio, perché ha usato un verbo, invece lui usa l'aggettivo, però vabbè, lo perdoniamo perché ha dei bei muscoli. Esatto, insomma, questo è un suggerimento per tutti, anche per Filippo Aureggi, che ci ha seguito in regia. Le nostre corsette le faremo per il bush anche noi, così diventiamo tutti più tonici. E si conclude qui il nostro appuntamento con English 24, vi ricordo l'appuntamento in edicola, e dovremmo ricominciare anche ad aggiornare le nostre pagine di Facebook. Ebbene sì, dai, ci riproponiamo di farlo, magari mettiamo questi due splendidi attori di Strike Back. Si conclude appunto qui il nostro appuntamento da Marta Cagnola e Giulia Crivelli. L'augurio di una buona serata.